questo titolo è dovuto al fatto di aver voluto come dire, unire le due mie grandi passioni, che poi una è proprio una passione così, per così dire, ludica, l'altra invece è stato anche un lavoro per molto tempo. Quindi il pensiero di stare davanti al divano in binge watching assoluto e quasi perverso, quindi fare zapping tra le varie serie TV e unire a questo però una visione femminista delle serie. E, ovviamente si gioca sul femminista seriale, perché no, comunque ha molteplici richiami e così può essere anche piuttosto accattivante da ascoltare. L'idea del libro è stata proprio quella di unire una, come dire, la storia del movimento delle donne. Infatti, come dire, la prima parte del libro riguarda proprio il come è stato rappresentato il movimento delle donne, la prima parte, quindi l'emancipazionismo, attraverso le serie TV. Nella seconda parte, seconda e terza parte, invece, il femminismo diventa come una sorta di lente attraverso la quale poter esaminare la presenza, l'evoluzione della rappresentazione delle donne nella serialità televisiva. Ecco, diciamo che c'è un po' questo doppio registro: da una parte la storia e dall'altra parte però il pensiero, che il pensiero femminista possa essere una, come dire, una sorta di lente attraverso cui decifrare qualsiasi oggetto mediale. Ecco, per cui io ho preso in esame alcune serie TV, ma credo che possa essere poi applicato a tutte le serie TV, ma anche a tutte le varie rappresentazioni che ci sono in TV, al cinema e cose varie. Ecco, non limitarsi semplicemente a quelle che io ho scelto. Ecco, una prima domanda che ti vorrei fare, visto che si parla di serie, ma poi rapportandosi anche al mondo reale, diciamo, appunto alla storia dei movimenti, è se secondo te, nei limiti poi del fatto che appunto buona parte delle serie che vediamo non sono, insomma, sono globalizzate in qualche modo, non saprei come dire, però diciamo nei limiti di questo, se secondo te la media di quello che è rappresentato a livello anche di appunto rapporti di genere, strutture di genere eccetera, è uno specchio della normalità della società in cui viviamo, oppure a volte è più avanti o invece addirittura più indietro? Ma questo dipende molto, secondo me, anche, come dire, dai paesi di provenienza delle produzioni e anche da chi poi dalle tipo di produzioni che ci sono, ossia delle emittenti che decidono di proiettare un certo formato. E quindi secondo me è, come dire, un panorama che si può considerare molto frammentato, proprio nella serie, considerando il tipo di target a cui è rivolto. Quindi io penso ad esempio alle televisioni generaliste, che si focalizzano e si fissano anche un po' su degli stereotipi che rimangono invariati nel tempo, e mentre invece poi ci sono quelle che sono adesso le televisioni digitali, ad esempio, che si avventurano su nuovi territori ed esplorano, per così dire, una diversa visione del mondo, una diversa visione dei rapporti tra i generi e le identità di genere e sessuali. Io vorrei augurarmi che, come dire, la società è poi più avanti, ad esempio, come spesso si dice, la società civile spesso è più avanti, ad esempio, della politica, delle leggi che li regolano. Io ora devo dire che non mi sento la competenza per poter affermare una cosa di questo tipo. Mi piacerebbe anche poter rispondere a questa domanda in maniera più positiva. Dipende dagli ambienti che si frequentano, dalle comunità in cui si è inserite. Certo, se poi si guarda una televisione, una trasmissione televisiva come presa diretta, dove i sostenitori di Pillon e il DDL Pillon viene presentato nel modo in cui viene presentato, è molto difficile sperare che la serialità televisiva, quando invece presenta, io penso ad esempio a una serie TV come Transparent o I Love Dick, dove siamo oltre lo stereotipo, no? Siamo quindi ad una rappresentazione che non ha più paura dell'identità di genere, non ha più paura delle transizioni, non ha più paura delle relazioni lesbiche, ecco, sperare che quella poi sia la realtà e che ci sia una ricaduta reale sul sociale, alle volte mi sembra quasi troppo ottimistico, ecco, quindi dipende dal, come dire, da, un po' dagli ambienti, temo che lo scenario che stiamo vivendo alle volte assomigli quasi di più alla, come dire, al panorama terrificante che si è visto nel racconto dell'Ancella, di quanto non sia invece magari in altre serie TV dove appunto la conquista dei diritti è andata molto più avanti di quanto ci si potrebbe anche soltanto aspettare. Quindi Non so se posso rispondere meglio di così a questa domanda. No, ma così andava benissimo. Invece, tornando al libro, diciamo, un'altra domanda che ti volevo fare era intanto appunto di citarci, qualcuna l'hai già citata, ma un po' delle serie di cui parli, mm-hmm. e poi se secondo te, diciamo, guardare serie TV per una femminista o comunque essere una femminista seriale richiede comunque una certa attenzione, o se invece è più facile, nel senso che diversi prodotti in realtà sono arrivati anche su Netflix recentemente, però dall'altra parte forse resta necessaria una ricerca delle serie più alternative, diciamo. Beh, sì, io nel mio caso, ad esempio, la prima parte, quella per così dire più storico-documentaria, che alla fine è stata quella meno spontanea, nel senso che le serie TV che analizzo nella seconda e terza parte, io ora penso a Little Big Lies, Why I Love Dick, Transparent, Good Girls Revolt, sono abbastanza note, sono disponibili e fruibili attraverso i vari canali, ora può essere Netflix, alle volte sono state altre produzioni, penso ad Amazon, ma anche Sky. E poi ovviamente si possono trovare sempre tutti online disponibili al download. Per quel che riguarda invece quelle storico-documentarie, io ho fatto proprio una ricerca ad hoc, nel senso che mi piaceva ad un certo punto pensare non soltanto appunto come si è evoluta la rappresentazione delle donne, del femminile, dei punti di vista di genere attraverso le serie TV, ma anche verificare come e perché e quando è stato rappresentato in televisione il movimento delle donne, quindi proprio il femminismo nella prima parte della conquista ad esempio del diritto al voto. Devo dire che lì lo scenario è stato abbastanza sconfortante, soprattutto per quel che riguarda l'Italia e di recente, per l'Italia ad esempio c'è pochissimo, io sono andata a recuperare uno sceneggiato che è Anna Kuliscioff mi pare del 1981, a parte di una lentezza esasperante, quindi già la cosa era, per i ritmi a cui siamo abituati oggi, molto di difficile visione. È disponibile questo su RaiPlay. La cosa che mi ha impressionato è che ad esempio Anna Kuliscioff, personaggio storica con un ruolo enorme nelle lotte per la conquista dei diritti politici, civili delle donne, nella serie TV questa parte è quasi completamente cancellata. La figura della protagonista assume rilevanza soprattutto in relazione alle due relazioni sentimentali con l'anarchico Costa prima e con il successo Frati dopo, però di tutta quella parte relativa alla sua lotta per i diritti delle donne c'è un accenno minimo, opaco e anche direi piuttosto irrilevante. Non è stato così ad esempio per una serie TV che invece è arrivata in Italia, queste sono quelle veramente che si fa fatica a trovare, alcune sono assolutamente introvabili, penso ad esempio a Shoulder to Shoulder di produzione inglese, assolutamente, che peraltro potrebbero essere anche, come dire, documenti storici, queste storie che non viene insegnata nelle scuole e quindi potrebbe anche aiutare a avere una visione un po' più completa di quello che è stato un cammino piuttosto lungo e difficile, visto che poi appunto della conquista al voto non è che si parla di centinaia d'anni fa, quindi siamo, come dire, ancora in quella parte di diritti appena conquistati e come tali anche di facile erosione, per cui ecco, io invece penso a quella svedese, la guerra di Miss Freemans, ecco, in quel caso invece è molto ben fatta, una buona attenzione storica alla lotta della conquista del voto da parte delle donne, è incredibilmente un grandissimo successo in Svezia. Ecco, però ecco, anche lì quello che si diceva prima, probabilmente poi dipende dalle produzioni, dipende dai paesi. In Italia, per quello che ho potuto vedere nella mia ricerca, è stata ancora di una storia un po', come dire, un po' sottaciuta, che non rientra nella grande narrazione, ecco, rimane molto sotto traccia. E, per quel che riguarda invece, come mi chiedevi, ecco, altre serie TV, se devo, io chiudo ad esempio con, cioè, perché io ho cercato, ecco, no, faccio questa piccola parentesi, ho cercato di parlare di temi. A me piaceva ad esempio affrontare, a parte quello appunto dell'identità di genere, così come può venire trattata da Transparent, ma ad esempio anche quello della maternità, che non trattato da un punto di vista del pensiero femminista. Ecco, per cui tra l'altro il libro si può leggere anche in due modi, cioè c'è un apparato di note che è piuttosto corposo, direi, e nelle note si approfondisce il tema, che viene magari affrontato ovviamente in modo non così approfondito attraverso la serie TV, ma viene, ecco, può essere studiato e affrontato in maniera diversa se si leggono anche le note attraverso cui si dipana un percorso che è quello delle teorie filosofiche femministe. La maternità, ad esempio, io penso alla seconda stagione di Top of the Lake, la seconda stagione si intitola China Girl, dove per l'appunto viene affrontato in maniera magistrale, a mio giudizio, dalla regista canadese Jane Campion, viene affrontato il tema della gestazione per altri. Ora, senza entrare troppo in dettaglio, che non so neanche se abbiamo tempo, ecco, però quello per me è stato un'occasione per poter mettere in nota molte di quelle che sono state i pensieri, le teorie delle femministe italiane, ma non solo, il pensiero della differenza, ma poi appunto si va dalle americane, Jane Rich, per cui tutta una serie di pensatrici, di filosofe femministe attraverso cui appunto si è affrontato e approfondito ad esempio il tema della maternità, non con, come dire, il punto di vista di una sorta di mistica della maternità, ma appunto anche una maternità che magari non si desidera, il non voler essere inchiodate a quel, come dire, a quel destino biologico a cui invece, come dire, in molti contesti sembra che si debba tornare, no? Quindi io credo che le serie TV, poi, che è la ragione per la quale ho pensato di scrivere questo libro, permettano di allargare la riflessione, no? Di allargare la riflessione a quei temi della contemporaneità, trattandoli in modo che possono arrivare più facilmente, magari anche ad un pubblico che di femminismo non sa niente. Ultima, faccio ancora un'ultima digressione. Io a un certo punto, nella mia bacheca di Facebook, un anno e mezzo fa circa, avevo iniziato a vedere che persone di cui non credevo, almeno pensavo che non avessero comunque un interesse verso il femminismo, avevo iniziato a vedere che chiedevano chi era Valerie Solanas. Valerie Solanas, lesbica radicale, di cui tra l'altro è uscito da poco l'edizione completa con tra l'altro traduzioni originali e inedite in Italia del manifesto Scam, a cura di Stefania Arcara e Deborah Ardilli, perché in una puntata di American Horror Story si affrontava proprio tutto il percorso lesbo-femminista di Valerie Solanas. Ecco, io quello l'ho trovata un'occasione unica per far conoscere una personaggia storica molto poco nota al grande pubblico, peraltro forse quando è nota solo perché ha sparato ad Andy Warhol, ma nella, come dire, in quella puntata viene davvero ben espresso il suo pensiero, il suo punto di vista, poi certo con elementi finzionali molto forti, quindi chiaramente con una parte di narrazione che non sempre è aderente alla realtà storica, ma questo se non sarebbe un documentario, quindi ha anche senso che sia così. Però effettivamente attraverso quella serie TV vista da moltissime persone, non di nicchia, con un grande apprezzamento da parte di un pubblico molto vasto, presentare una personaggio di quel tipo, secondo me, è, come dire, può essere un cambio di passo anche nella, come dire, nella coscienza sociale di quella che è la storia delle donne. Quindi insomma io mi ricordo adesso, mi stava venendo in mente una frase che sinceramente non ho idea da dove sto tirando fuori, se da qualche commento sui social o un qualche articolo. Comunque mi ricordo di questa persona che scriveva di aver deciso fondamentalmente di non andare a vedere nessun film, in quel caso era, ma penso si possa riapplicare anche alle serie TV, in cui non ci fosse una donna con un ruolo non di protagonista necessariamente, ma che non fosse solo di oggetto e di contorno, diciamo, una trama in cui comunque non veniva rappresentata, e diceva è molto difficile fare questa selezione. Esatto, beh, questo è il batch del test. C'è questo test che è tratto da, che tra l'altro viene utilizzato molto frequentemente anche a livello mainstream per valutare la presenza delle donne e soprattutto il loro ruolo all'interno dei film, non soltanto ovviamente della serie TV, di qualsiasi rappresentazione. E nella vignetta, che peraltro è anche piuttosto vecchia, credo abbia una ventina, trentina d'anni, nella vignetta Alison Bechdel appunto aveva messo in scena due amiche, una delle quali dice dalle sue regole, lei non vuole più andare al cinema, come dicevi tu adesso, perché la rappresentazione delle donne è assolutamente sfalsata. Lei dice che ha tre regole, quindi tornerà al cinema solo quando, prima regola, ci saranno due donne, almeno due donne dotate di nome, e quindi non solo di ruolo, non devono essere mogli, madri, amanti, figlie, ecco, quindi due donne dotate di un nome. Seconda regola, che devono parlare almeno una volta all'interno di tutto il film tra di loro. Terza regola, di qualcosa che non sia che non riguardi un uomo. Ecco, quindi questa, per così dire, è peraltro una categoria, queste sono tre regole che vengono adesso veramente applicate, tra l'altro, che io sappia, neanche soltanto ai film, ma anche ad esempio ai libri, per verificare qual è il sessismo che passa attraverso le varie narrazioni. Bisogna dire che io non mi ricordo se è stato l'anno scorso, due anni fa, passarono pochissimi film, ad esempio, attraverso questo test si scoprì che i film che passavano, quindi che avevano queste tre regole, erano pochissimi, perché poi alla fine come dire, lo sguardo rimane quello maschile, ed è quello che appunto oggettifica le donne, le inchioda in ruoli fissi e monolitici, e da cui è veramente molto difficile scappare. Allora, io intanto ti ringrazio per avermi chiarito la fonte di questo molto imprecisato ricordo, e poi a questo punto ti farei la domanda conseguente, ovvero se, secondo quanto scritto anche nel tuo libro, poi stiamo arrivando anche in chiusura in realtà di questa intervista, però se ci puoi lasciare con un messaggio di speranza, almeno in parte, quindi se si può, se non tornare al cinema, quantomeno guardare una parte delle serie TV su internet. Ma io il messaggio di speranza da parte mia in realtà poi è totale, perché io credo che appunto se si applica questa, al di là del test che io peraltro nel libro dico di abbandonare, nel senso che secondo me come dire, è molto rigido, poi come dice Alison Bechdel stessa, è qualcosa pensato una trentina di anni fa, il lesbofemminismo era, e quindi molto più avanti della cultura mainstream che appunto ci è arrivata adesso. Io penso che attraverso il pensiero femminista si possano decifrare le teorie, come dire, le varie sfaccettature delle tante autrici femministe che ad esempio nel libro vengono citate, si possa decodificare in qualche modo quello che viene rappresentato e avere uno sguardo diverso, perché poi io non penso che si tratti di uno sguardo semplicemente, no, di una donna biologica, non siamo lì, si tratta semplicemente di andare a rilevare, e questo lo si può fare in molte serie TV, uno sguardo che comunque rimane, che è resistente alla norma, che si pone a lato del pensiero egemonico, e da questo punto di vista, a mio giudizio, si possono reinterpretare, risemantizzare molte delle cose che vediamo e avere uno sguardo, come dici tu, forse un po' più positivo sul futuro, ma soprattutto su quello che passa anche alle nuove generazioni, che poi sono forse il target privilegiato della serialità televisiva, quindi questo può forse lasciar ben sperare. Io, se penso anche ad una serie TV di cui non ho parlato, ma io penso ai 100, ormai molto spesso c'è ad esempio una personaggia lesbica, gay o trans, quindi è passata la possibilità di mostrare e rappresentare e identità assolutamente fuori dalla norma, dal pensiero binario e quindi lontani dal pensiero egemonico. Ecco, questo è quello che spero e che credo che ci sia comunque. Perfetto, io purtroppo ti devo interrompere, ma ti ringrazio molto e ti chiederei di ricordare appunto ancora una volta sia il titolo del libro e sia l'incontro di sabato, perché appunto in quel caso non ci saranno limitazioni di palinsesto e quindi si potrà andare avanti più tranquillamente. Io intanto ringrazio te, ringrazio la radio e chi ascolta. Il titolo del libro è Zapping di una femminista seriale, si trova sia in cartaceo sia in digitale, è stato pubblicato dalle edizioni nel 2018, credo di aver detto tutto, e l'incontro è a Bologna, alla Libreria delle Donne, via San Felice, sabato 9 febbraio alle 18:30, non mi ricordo. Alle 18 te lo dico io perché ho l'evento sotto mano in realtà. Esatto, è sabato alle 18 alla Libreria delle Donne. Tra l'altro parteciperanno anche poi Elisa Coco per l'associazione Luchi Massa e Lucia Tralli che è docente di media e studi di genere. Perfetto, quindi grazie mille. Ti ringrazio di nuovo e niente, buona giornata. Altrettanto, grazie ancora. Buongiorno.